Init for you. Init Ciora music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood 97-800, Radio Sandonà 102-200, l'avevamo promessa e sta capitolando sulle vostre teste una trasmissione diversa da quello che è il solito standard di Music for You. Benvenuto a Luisa Favotto e buonasera o buongiorno. Una trasmissione diversi nel senso che ora da adesso in poi si parla solo in rima. Le rime ce le fa chi? Con cortesia, simpatia, ma soprattutto ampio parcheggio, Massimo Battistella, il nostro esperto della giornata, perché possiamo definirlo sostanzialmente così, no? Sì, perché noi nel nostro abisso di ignoranza, volendo parlare di un'etichetta che ora ci presenta Massimo, di cui noi sì sappiamo qualcosa, però non così tanto. Guarda, io posso palesare la mia ignoranza, cioè è appunto per quello che abbiamo bisogno dell'esperto, cioè, non diamo i meriti che non ho, cioè sostanzialmente sì. Sono un ignorante rispetto alla Touch & Go Records, sì lo sono, basta, interviene Massimo Battistella e salva questa cazzo di ora zero, come direbbe Vasco Brondi e le luci della centrale elettrica. A questo punto il nostro Alberto Angela della situazione è appunto Massimo. Ciao Massimo. Ciao Max. Ciao, buonasera a tutti. Oh, finalmente, grazie per averci salvato, come si diceva. Perché? Perché una serata etichette? Cioè, la domanda che ci sarà nelle teste dei nostri radioascoltatori. Perché secondo noi, se devo dirvi la verità, ascoltatori, è anche bello parlare di un'etichetta che tanto ha dato alla musica mondiale, sì. E che comunque, cioè, qui ci ricordiamo in uno su tre italiani in questo studio. Max, perché la Touch & Go Records? Perché la Touch & Go Records? Secondo me, innanzitutto è utile parlare di etichette di musica indipendente in generale, nel senso che è una cosa che purtroppo anche in Italia sta sparendo, salvo un caso, io direi, nazionale, di cui magari si potrà parlare più avanti, che è appunto la Tempesta. Diciamo che quello che è stato Midfinger, oppure Gamma Pop, oppure la Wide, oppure tante altre etichette in Italia purtroppo non esistono più. Purtroppo, con il benvolere degli Stati Uniti, che continuano ad averne un sacco, anche storiche etichette quali la Touch & Go hanno smesso di produrre musica nuova e continuano a basarsi su un catalogo antico, diciamo, tra virgolette. Quindi è utile parlare di etichette per parlare di musica indipendente, che forse con l'avanzare di internet, invece che essere più diffusa, viene a sparire in favore di nuova musica bella e anche tanta brutta. Comunque non preoccupatevi, non sarà niente di diverso dal solito Music for You, vero Favotto? Assolutamente no, nel senso che noi potremo continuare a dire le nostre consuete cavolate. Ma perché è stato chiamato Massimo? Perché lui suona anche in una band che potrebbe andare sotto contratto della Touch & Go, se la Touch & Go facesse qualcosa. E saremmo la seconda band italiana a finire sotto Touch & Go, ma non ritengo che i Mr. Comma siano malevoli come gli UZ. Però poteste presentarvi alla prova del cuoco per delle ottime marmellate. Assolutamente sì. Noi, prima di addentrarci in trasmissione, vogliamo fare un plauso a questa grandissima iniziativa dei Mr. Comma. Esatto, le mie fette biscottate gioiscono grazie ai Mr. Comma. Siamo tutti capaci di vendere dischi o carabattole allo stand del merchandise finito il concerto, vero? Che ne so, Love in Elevator, che avete suonato con i Mr. Comma e i nostri fedeli ascoltatori. Ma chi è che ha quella idea, quel baco nel cervello di portarti la marmellata? La risposta è i Mr. Comma. Esatto, la risposta è i Mr. Comma. Ottima idea. Grazie mille. No, questa è stata un esito di una fortunatissima cena, quale avvengono spesso nel mondo Mr. Comma, ossia in cui ci troviamo io, Nicola, Iva e Guido completamente ubriachi, e elogiando una delle confetture del bassista di Mr. Coma, quale Nicola, che ci ha fatto delle buonissime melanzane sott'olio. Ridendo e scherzando abbiamo detto: beh, invece di fare dei dischi potremmo fare le confetture di Mr. Coma. Dalla barzelletta si è passata la realtà e al concerto appunto del 6 novembre con Love in Elevator abbiamo allestito un banchetto di una decina di marmellate numerate a mano. Molto bene, questa mia leccata personale serviva per guadagnarmi a gratis, perché soldi ne ho pochi, un barattolo di marmellata. Ce l'ho fatta, presumo, vero che ce l'ho fatta? Assolutamente sì. Bene, anche perché contento. Siamo in riedizione, la mamma di Nicola è là che è spignata. Ha dovuto chiamare Mondi al casa per aver più pentole. Bene, ora placatemi, come dicono nel famoso film Le conseguenze dell'amore, nei migliori campi di rugby. Grande Servillo. E Massimo, parlaci a pie spinto delle lucertole di Jesus Lizard. Esattamente. O Lizard. Parliamo di Jesus Lizard, che vorrebbe dire Gesù lucertola, il che non è una bestemmia. No, assolutamente, perché è una razza di lucertola che cammina sull'acqua. Basilscus, questo esatto, è il nome. In ogni caso, fosse anche stata una bestemmia, qualcuno ha detto che va contestualizzata. Esatto. E comunque qualcuno ha detto qualcuno ha detto: se non c'è la P non è una bestemmia. Mamma, che fila di porcate che hanno detto quella volta, pure di orcate. Bene, e mentre andiamo tutti al bioparco si stava parlando, ci troviamo le lucertole. Parliamo dei Jesus Lizard. Eh sì, i ragazzi dello Stop and Go, perché fanno un po' questo anche nelle loro tracce. Assolutamente sì, parliamo di un gruppo che comunque ha la sua natività da un gruppo ancora più seminale, secondo me, del noise, e tra l'altro di un gruppo che è stato prodotto da Touch and Go, che sono appunto gli Scratch Acid. Vedevano già David Yo, il cantante dei Jesus Lizard, come frontman. Il gruppo è composto da lui e altri tre baldi giovanotti, tra cui Duane Denison, che diciamolo pure è endorser della Gibson, quindi di sicuro non è un chitarrista alle prime armi. Ha figurato anche poi nei progetti collaterali di Mike Patton, quali Tomahawk, e quindi direi, insomma, non stiamo parlando proprio di pizza e fichi, ma di gente che sa suonare veramente. Io direi che passerei anche subito così a... No, io vorrei farti fare un passo indietro. Facciamolo, cioè, facciamolo. La classica... Mi sposto anche la sedia. Poi andiamo, La classica domanda dell'analista. Io vorrei sapere... Sono sei minuti che non diciamo nulla. Quando nasce Tao Cheng Go? Perché esatto. Qua non lo dice nessuno. Allora, Tao Cheng Go nasce addirittura come fanzine prima di essere un'etichetta, quindi siamo sulla fine degli anni 70 addirittura, e sempre in quei movimenti hardcore punk molto violenti del mainstream americano, anzi del non mainstream americano, e nasce praticamente come fanzine a Chicago, anzi l'etichetta è di Chicago nell'Illinois, ma la fanzine, che era appunto una fanzine fatta a mano dai panchettoni e fatta stampata a mano, nasce nel 1979 a East Lansing nel Michigan, per essere proprio precisi e ad hoc, ad opera di Tescovi e Dave Stinto. E ricordo che Tescovi, per un amante come me di tutti i gruppi grandi come la mia falange, faceva parte dei Meatmen, o gli uomini carne, traducendola, e quindi diciamo che la storia è antica. Come etichetta nasce nel 1981 tra le mani di Corey Rusk, e il suo gruppo erano i The Necros. Tescovi, tra l'altro, fa i Meatmen, da lì macellerie, da lì il supermercato. Ora, io mi do fuoco e mettiamo la prima traccia, per cortesia. Alle coincidenze non c'è mai fine, anche i Jesus Lizard nascono nel 1989, è sempre Chicago, è sempre Illinois, e questa è... Puss, dall'album Liar. We'll be right back. Sono di nuovo, io sono Massimo e stiamo parlando della Touch and Go. Volevo fare un piccolo appunto perché prima la mia dislessia mi ha fatto pronunciare i nomi in una fretta volgarissima e ho tipo storpiato il nome del secondo fondatore della fanzine, appunto del 1979, che è David Stinson. Non penso che la gente si sia risentita, sai. Però insomma, ma forse per, David per la cronaca della precisione, quindi ridico le due date fondamentali. 79 abbiamo la fanzine stampata a mano, quindi tradizione molto punk, e nell'81 appunto presa in mano la situazione da Corey Rusk con il suo gruppo The Necros, e l'altro gruppo poi fondante nell'81 sono i The Fix, di cui sono stati prodotti di entrambi i gruppi dei 7 pollici. Questo era giusto per cronaca di precisione e pedanteria. Bene, ora la playlist di questa ora è organizzata in una certa maniera. Certo che sì. Che sia un po' spendibile rispetto a quello che avete sentito prima, non che sia poco spendibile, però insomma è un po' più settoriale rispetto alle nostre classiche sonorità, lo riconosciamo un po' tutti qui dentro, anche la pecora di Pordenone Legge presente nel poster, che è appeso alla destra di Favotto. Secondo preambolo, Touch and Go, yes, è un po' limitata nella produzione in questo periodo. Allora, se ne discuteva, vero? Sì, sì, sì. E qui lancio la palla a te. Questa non era una cosa detta a casaccio. Esatto, nel senso che Touch and Go ha prodotto per tantissimi anni, più o meno dall'81 al 2009, in una maniera diciamo molto forte. Per Touch and Go sono passati una miriade di gruppi devastanti, tra meno famosi e più famosi, nel senso che comunque si parla di un'etichetta che, pur indipendente, ha prodotto una quantità di musica veramente notevole. Non sto neanche qui a nominarli tutti, nel senso che sono passati Yeah Yeah Yeahs, Chick Chick Chick, sono passati TV on the Raid, sono passati gli Shellac, sono passati Jesus Lizard, sono passati Rape Man addirittura all'inizio, sono passati un sacco di gruppi veramente fighi. E dopo volevo anche raccontare un piccolo aneddoto su un gruppo veramente importante della storia della musica mondiale, ma lo lasciamo per dopo. Ah, ok, no, potevi anche dirlo adesso. Lo lasciamo poi, no. No, come, è una chicca. Come panettone finale, visto che ci avviciniamo a Natale. E quindi io direi che adesso lancio la pietra pesante di presentare il prossimo pezzo a Alvise Favotto. No, io per concludere questo simpatico siparietto volevo dire che durante questa puntata ospiteremo della gente che ci ha messo le radici in Touch and Go, altri che sono passati così per una sveltina veloce lasciando qualcosa di notevole, lasciando ottimi ricordi, e poi sono approdati in altri porti. Tra questi abbiamo Ted Leo and the Pharmacists, che scelgono Touch and Go per il loro esordio. Scelgono Touch and Go e poi emigrano su Matador Records. Il brano che stiamo per andare ad ascoltare è uscito per il secondo disco, credo, che è uscito per Matador Records. Ted Leo and the Pharmacists partono, questi, della gioventù americana che fa punk in sostanza, ma lo fa bene, perché quello che piace a te. Sì, in pratica sono i Clash, però rivisti e svecchiati di base. Comunque ci sono dei bei nomi dietro, perché il fratello di questo è uno dei Van Pelt, e addirittura, aspettate che mi documento, c'è un aiuto di chi? Di Brendan Canty, dei Fugazi, sì, che piacciono tanto a Massimo Battistella. E che poi ricordiamo, i Fugazi, citando il grandissimo Ian McKay, fondatore dei Fugazi, nonché precedentemente nei Minor Threat, è il leader della Discord Records, che viene spesso associata alla Touch and Go come entità di etichetta realmente indipendente, e di cui noi in futuro faremo una trasmissione. Sì, anche perché mi trovo molto bene con Massimo Battistella, potremmo addirittura pensare di prenderlo su come terzo conduttore. Esatto. Il problema è che abbiamo pochi microfoni e ancora meno cuffie. Comunque, bando alle ciance, questi sono i Ted Leo e i Farmacisti. Al suo seguito l'album è stato pubblicato il 9 marzo 2010, si chiama The Brutalist Bricks, mi sono impastato la bocca, e questa è Bottled in Cork. There was a resolution pending on the United Nations floor. Our members do the question, what's a peacekeeping force for? Who believed it would be solved in a day? No one walked out of that building on the 8th of May. And the time suited one out way. I got a message from my sister. She just had a kid. I dig it to Copenhagen to see how she did. My head could startle a Canadian. He called me Ted Leo and the Pharmacist. Siamo ritornati su Music for Youth, questa Radio Sherwood 97800 in combinata con Radio San Donà 102.2. Quale miglior coppia potreste beccarvi? E quale miglior trio? Gianni e Pinotto. Potreste beccarvi oltre insieme a me, Alvise e Favotto, ma soprattutto Massimo Battistella. Bentornati, questa è una puntata speciale sulla Touch and Go Records, 180 grammi di pura qualità, direbbero gli Shellac, visto che la loro prima produzione è sempre in vinile e subito dopo stampano su CD. Stiamo parlando di un gruppo lo-fi di Chicago, pensaci tu, Max. Assolutamente sì. Visto che hai parlato di questa cosa qua e di anni 90, parliamo anche del fatto che nel 1990 la Touch and Go si fonde con un'altra etichetta gemella, che è la Quarter Stick Records. Questo per nota informativa generale e pedante come al solito. Grazie. Allora, parliamo di Shellac. Come non parlare di Shellac all'interno di Touch and Go? Steve Albini, il grande guru dell'analogico, ha contribuito moltissimo al suono di Touch and Go, tanto è vero che anche Jesus Lizard, che abbiamo ascoltato prima, nei primi dischi, appunto quelli usciti per Touch and Go, sono stati registrati più e più volte da Steve Albini. Steve Albini cosa ha registrato? Oltre al famosissimo In Utero di Nirvana, PJ Harvey ha registrato UZ, di cui parleremo dopo, ha registrato se stesso, ha registrato tutti i suoi progetti precedenti, quindi stiamo parlando veramente di un guru dell'analogico. Lui registra solo in analogico e nei dischi che registra non si fa mai mettere come produttore ma come registratore. Recorded by Steve Albini. Il pezzo che stiamo andando ad ascoltare è Copper, dal secondo album, che si chiama Terraform, del 1998. Io lo preferisco un po' meno all'esordio su Touch and Go, ovviamente, che è Action Park, che forse è il capostipite e l'album più importante della produzione degli Shellac, ma direi che comunque stiamo andando ad ascoltare un bel pezzo panchettone stile noise a Shellac. Grazie Foto, guarda, il tuo contributo è come al solito determinante. Veramente il cazzo sui maccheroni a questo punto. Allora, si diceva Shellac, Steve Albini. Io credo che non ci sia molto da aggiungere. Max, sei stato molto molto esplicativo. No, veramente esaustivo questo ragazzo. Noi davvero ti ringraziamo. Guarda, mi sento molto a mio agio su questa scomodissima poltrona. Perfetto. E ora andiamo ad ascoltarci di Shellac. Questa è Cooper. Big and free. dazzled by your beauty, still you know. Plated or anodized, you even fool a layman's eyes. Presentable though you might be, it's unwise to try to fight me. Cooper o Cooper degli Shellac, penso sia più giusto la seconda pronuncia visto che l'ho sentito uscire dalle mie orecchie mentre abbassavo i volumi. Siamo rientrati, Music for Youth, purtroppo per voi questa è una puntata dedicata alla Tao Chengo Records e a chi della Tao Chengo se ne va e trova nuovi porti dove stare. Stiamo parlando degli Yeah Yeahs, band di supporto ai White Stripes. Per il resto cedo la parola al buon Favotto. Classico, mamma mia dammi 100 lire, nel senso che anche questi registrano per Tao Chengo e poi abbandonano. Trio newyorkese, cantato femminile, li ho visti a Glasgow, a me sono piaciuti prevalentemente. La ragazza quella sera aveva questa frangia che andava ben oltre il suo naso e quindi io ho passato un buon tre quarti d'ora della mia vita nel cercare di capire come questa vedesse e si orizzontasse, e non sto scherzando perché comunque non si vedeva niente, poi aveva i capelli gelatinati, se si può dire, sì, brillantina. Dal vivo sono, secondo me, hanno un impatto che è devastante. Loro avevano cominciato anche con Wichita Recordings per poi approdare a Tao Chengo e adesso non so dove se ne siano andati, ma gli auguriamo tanto tanto bene. Allora, io incrocio le dita, sì, perché forse dico una cazzata, ma mi pare che il pezzo che stiamo per ascoltare sia uscito dall'album che è prodotto per Interscope Records. Sì, confermo. E sto andando a braccio, ragazzi. Siamo contentissimi di questo, grazie per il supporto. Io vivo nell'ignoranza come al mio solito, ma sappiate che da ignoranti se vive parecchio bene. Tra l'altro vorrei far notare che le influenze dei tre membri del gruppo, se sono ancora tre ma penso proprio di sì, sono molto diverse, nel senso che il batterista viene dal jazz. Grazie Favotto per l'informazione. E io penso anche che si senta da qualche parte, se posso dire la proviamo mia a verificare, magari nel pezzo che andiamo a ascoltare adesso. Music for Youth continua, siamo quasi alla mezz'ora sul counter. Questi sono gli Yeah Yeah Yeah e questi è Maps. mappe degli sì, più o meno così sarebbe stata la traduzione in italiano. Sì, oh sì sì sì, forse sì. Dovevamo metterci solo più piglio, sì. O più sessualità, grazie Favotto, sessualità per... corte. Ritornati a Music for Youth, la serata speciale o pomeriggio, quando ci ascoltate, quando ci ascoltate in streaming, fatecelo sapere, scriveteci in qualche maniera, ditelo anche a Massimo Battistella contattandolo sulla pagina di Mr. Coma. Assolutamente sì. Siamo tornati, serata pomeriggio sulla Touch and Go Records. E dove andiamo a sbattere adesso, Favotto? Andiamo a parlare di Kurt Cobain. Massimo. Allora, aneddoti divertenti. Chiaramente Kurt Cobain, grandissimo appassionato di musica oltre che musicista, si cippava tutti i gruppi della Touch and Go Records. Il suo gruppo preferito ovviamente gli Scratch Acid, di cui abbiamo parlato prima. Kurt Cobain, quando aveva registrato i primi demo tapes dei Nirvana, inviava letterine simpatiche alla Touch and Go, tipo con formichine di plastica, preservativi rotti, cose del genere, chiedendo che ovviamente la collaborazione. Non solo, vi dirò di più, quando i Nirvana erano già belle rockstar navigate, il signor Kurt Cobain ha incontrato il signor Corey Rusk dicendogli: ma la Touch and Go è la mia etichetta preferita, io vi ho inviato un sacco di demo. E lui diceva: guarda, all'epoca ascoltavamo talmente una marea di roba che vecchio mio. Io gli avrei risposto: ah, eri tu quello che inviava formiche. No, la cosa divertente è che poi, quasi al successo dei Nirvana, comunque loro hanno fatto un'uscita per Touch and Go, appunto in uno split con i Jesus Lizard, tra l'altro proprio con la canzone che abbiamo ascoltato prima, nel senso che era uno split tra Oh The Guilt dei Nirvana, che è uno degli inediti, poi straediti appunto, dei Nirvana, e Puss appunto dei Jesus Lizard. La copertina era tra l'altro stradivertente, nel senso che c'era questo barboncino e un indiano, un capo indiano in copertina, una cosa. Adesso andiamo invece a parlare di un vanto nazionale, sì, un po' come la pasta Barilla, l'Italia. Facciamo un salto all'Atlantico e arriviamo in Italia. L'Italia ha una band su Touch and Go. Assolutamente, nel catalogo Touch and Go sono presenti gli UZ. Gli UZ è un gruppo catanese composto da tutti italiani, di cui ricordo i due membri, diciamo, più prolifici, in quanto fanno parte poi del progetto Bellini, che sono Giovanna Cacciola, che è la cantante di UZ, e Agostino Tillotta, che è il chitarrista. Perché questa band è particolarmente importante, oltre per aver pubblicato chiaramente per Touch and Go? È una band dalla storia molto antica, nel senso che nascono nel 1987 con te lo dico subito, Out of Colors, che era dell'album dell'89 89, che è uscito per la AV Arts, che era un'etichetta italiana, insieme, e poi pochi anni dopo deve essere uscito Waters 93. Esatto, quindi la mia memoria non fa cilecca. Io vorrei far notare però, per i gentili ascoltatori, che nel Battistella versus Terzariol vince lui, Battistella sta andando a memoria. Eh sì, cioè io devo però governare questi studi, per cui mi porto dietro tutti i documentini per tendere il braccio a voi nel esatto, qual caso. Esatto, è un supporto. Poi cosa succede negli anni 90? Nel 95 gli UZ, o nel 94-95, gli UZ firmano per un'altra etichetta che si chiama Strange Fruit, da cui non si sa bene se poi sia uscito bene qualcosa o no. Si sa solo che in quell'anno lì gli UZ sono uno degli unici gruppi italiani, che sono due, a registrare per John Peel. Quindi scusa. Esatto, e hanno registrato loro e la premiata Forneria Marconi, quindi di nuovo niente pizza e fichi. Cosa succede? Incontrano Steve Albini, se non erro, alla fine di un concerto nel 1995, fanno il loro album che si chiama Four. Nel 1998 fanno un altro album, sempre entrambi registrati da Steve Albini. Nel 2006 l'ultimo album degli UZ, che si chiama Stella, da cui stiamo andando ad ascoltarci il brano This At, appunto del 2006, From Stella. Noi andiamo a sentirci gli UZ, quindi. Loro adesso sono in quattro componenti. Assolutamente. Come sì. Dicevi tu, l'album si chiamava Four. Four, il primo che hanno fatto per... E quell'album lì era composto di quattro tracce. Questi sono gli UZ. Warming up my days and my The Set degli UZ da Catania con amore. Noi riprendiamo il nostro aereo targato Touch & Go Records e ce ne ritorniamo a Brooklyn, perché stiamo per parlare di una band che sono i TV on the Radio, trasmigrati anche loro dopo essere passati, come ovvio, alla Touch & Go Records. Non chiedetemi dove sono passati, comunque da Interscope qualche parte anche loro. Anche loro, questa Interscope piglia tutto, una gran rete a strascico nel mare praticamente. E questi sono tutti tonni a questo punto, a pinne gialle tra l'altro, di cui anche la qualità migliore qualità. Stiamo parlando dei TV on the Radio. Il loro album io non ce li ho presenti granché, però nel 2008 avevo ascoltato un album che si chiamava Dear Science, che è l'ultimo prodotto, e a me piaceva, me li sono anche dimenticati per strada. Figlioli san suonare sicuramente, sì. Me li sono anche dimenticati per strada. Sonorità un po' diverse da quello che abbiamo sentito finora, se posso permettervi. Siamo molto più sull'indie in un qualche modo, sì. Non che quello che abbiamo sentito prima non sia indie, però indie nella concezione, diciamo, corrente del termine. Comunque questi TV on the Radio parlano le scritte sotto i miei occhi, hanno collaborato con un bel pacco di gente. Adesso vi faccio alcuni nomi per far capire la circolarità di questa puntatina. Kazuma Kino dei Blonde Redhead, che poi ascolteremo in chiusura di puntata. Il leader dei Nine Inch Nails, Trent Reznor, che anche firmato, come discutevo con Favotto oggi, un'ottima colonna sonora per il film The Social Network. Sì, vi abbiamo già parlato di questa cosa, adesso se mi è permessa una ci veloce quei digressione. 30 secondi. Trent Reznor aveva già fatto una serie di cose con Atticus Ross e ne abbiamo avuto modo di parlarne qualche tempo fa e abbiamo parlato del progetto Error. I due si sono ritrovati e hanno curato la colonna sonora di The Social Network, una colonna sonora elettronica che noi consigliamo. È piaciuta moltissimo, sì. Parecchio. Comunque, per continuare la lista nomi, Nick Zinner degli Yeah, sentiti poco fa. Beh, c'è anche un certo David Bowie e con questo direi che ho chiuso. Sì. TV on the Radio, dunque, si diceva da Brooklyn. Favotto, dimmi. No, volevo dire che David Bowie è tra i loro maggiori fan. Come era successo ai tempi per i Placebo, David Bowie scopre i TV on the Radio andando a un loro concerto, in sostanza, e se ne innamora. Max, è il tuo turno, perché non puoi stare zitto nella puntata in cui tu sei il Grand Master. Assolutamente sì, volevo fare una piccola digressione sul pezzo che ascoltavamo prima degli UZ, ricordando che Stella è uscito proprio nel 2006, quando c'è stato il 25ennale della Touch and Go, che è stato un motivo per fare un festival di 3 giorni, rispettivamente dall'8 al 10 settembre del 2006, in cui hanno suonato praticamente tutti quelli che hanno fatto parte di Touch and Go, quantomeno tutti gli storici, insomma. Tra l'altro, Massimo, durante questo fuori onda mi sta raccontando una cosa bellissima sugli UZ e su una non meglio specificata, ma ti abbiamo qua per questo, un non meglio specificato negozio di chitarre. Assolutamente sì, Agostino Tillotta ha un negozio di chitarre a Catania, e facciamo questo messaggio promozionale, che si chiama Indigena Store, e appunto tiene, è l'unico rivenditore italiano delle Electrical Guitar Company. Cosa sono queste chitarre? Chitarristi come Steve Albini, Duane Dennison di Jesus Lizard hanno tutte queste chitarre con i manici in alluminio e molte volte anche il corpo di alluminio. Recentemente anche Melvins, come il chitarrista dei Melvins, Buzz Osborne, le usa. In Italia l'unico che le vende è Agostino Tillotta degli UZ. Radio ascoltatori di Music for Youth, sapete dove andare a buttare i vostri soldi, nel qual caso avete vinto al Super Enalotto. Se è un sistemone, una quota va anche a noi. Le chitarre perché in alluminio. Esatto. Poi è un momento bellissimo, perché poi vi portano dovunque vogliono con delle semplici calamite. Siete anche documentatissimi ormai sulla Touch & Go Records, e noi ora andiamo ad ascoltarci i figli della Touch & Go Records che se ne sono andati di casa, i TV on the Radio, dal loro album Dear Science del 2008. Questa è Family Tree. Thank you. calls in billows. It's echoing moonlight on to the blue nightmare of your heart. In cozy red rainbow, it's shaking off halos and the memory of our sacred so-and-so. Take my hand, sweet. Complete your release and bury your feet, and married we'll be. Alone in receiving, ours is a feeling not that they would see. They don't know that we could be the way cradle escaped the sea. And your raven hair, mama, caught twigs in the shadow of your family tree. Your haunted heart and me, brought down by the evil guardians. Time has come. And in the shadow of the gallows of your family tree, there's 100 hearts or 3. Under blood to the roots of evil to keep it young. All'ombra del tuo albero di famiglia, i TV on the radio dell'album Dear Science del 2008. Questa è una puntata special sulla Tau Chen Go Records, ospite Massimo Battistella di Mr. Coma, un gotha delle sonorità della Tau Chen Go e un favoto con le mani nel naso che non si scompone dopo i TV on the radio. No, e anzi continua con l'archeologia, favotto. Vuoi stare veloce da buon impiegato, proprio una cosa semplice semplice, giusto per dire i contatti, niente di arzigogolato. 0421560993 è il telefono, 0421560994 è il fax, Radio Chiocciola Radio Sandona è la nostra email per insulti, cartacce, sputi, però sputi soprattutto via fax, perché così vediamo l'alone. musicforyouth.wordpress.com, il blog dal quale scaricare questa puntata. Abbiamo una pagina anche in Sherwood, ma soprattutto un gruppo in Facebook al quale vi consiglio, o anche no, di iscrivervi. Music for Youth on Air è il titolo che porta. Stiamo passando dai TV on the radio a una realtà la più elettronica forse di questa sera. Massimo fa ovviamente sì con la testa e stiamo per parlare dei check check check, o i tre punti esclamativi quando non sappiamo come pronunciarli. Molto onomatopeicamente parlando, con lo sternomastoideo. Cleido, Terno Cleido Masto Ideo. Buono, ci siamo. Cleido come Cledi, il ballerino. Quello di partorito con amici Maria De Filippi. Lo sapevo che questa puntata sarebbe finita in vaccate almeno per due minuti. Eravamo stati troppo seri fino adesso. Eravamo stati bravissimi. Certo, cioè, non ho mai fatto una puntata così calma, quieta, ma soprattutto professionale. E io adesso faccio quello dei dati ancora. Nel senso che Touch & Go ricordo che è stata distribuzione, e lo è tuttora, per Jade Tree con gli Rockstars e Merge Records. In più, col partner Quarter Stick Records, sono usciti dei gruppettini tipo Henry Rollins, Juno 54, Calexico. Insomma, scusa, stiamo parlando proprio di niente pizza e fichi. Stiamo parlando invece adesso... Calexico, se posso dire, sì? Tra i miei gruppi preferiti in assoluto di tutti i tempi. Hanno suonato al New Age con il supporto di Iron & Wine. E purtroppo ero via. Purtroppo ero io non li stavo ancora cagando. Iron & Wine, che tra l'altro è uno tra i miei preferiti. È passato su queste frequenze del... Ah, credo che fosse passato di qua. Sì, sì, no, ma anche è in messo bagno al momento, però... Love Vigilance, sì. Poi lui ha rifatto anche una traccia di Postal Service, Such Great Heights, però noi abbiamo messo l'originale, non offenderti Max. No, a me piaceva moltissimo Boy with the Coin, quel singolino bello, tra l'altro bel video. Parliamo invece di Check Check, per cortesia. Assolutamente sì. Sì, non dimentichiamoci a dove siamo arrivati. Loro hanno pubblicato su Touch & Go il singolo che li ha resi più famosi, Me and Giuliani, Down by the Schoolyard, esatto. A True Story, grazie per il titolo lunghissimo, questa non ce l'ho scritta, per cui... È assolutamente vero, cioè confermiamo le doti di conoscitive di Terzariol qui presente. Facciamo cenni di assenso continui. Grazie, veramente grazie. No, è proprio vero, tra l'altro il singolo che li ha portati al successo e li ha fatti conoscere praticamente internazionalmente, dopodiché loro partono con questa deriva molto più elettronica rispetto all'esordio, se mi è permesso, e licenziano un album recentemente che si chiama Loud. No, mi sto assolutamente sbagliando, non lo so il titolo, forse è omonimo del pezzo che stiamo per portare, che è The Most Certain Sure. Loro hanno prodotto Vado a braccio anche io, Loud Up Now nel 2007, o Mistake, non mi ricordo su per giù la data. Comunque questi sono i due album principali, 2008, credo, che vi consigliamo. Noi lanciamo come le migliori radio il loro ultimo singolo. Questi sono i Check Check Check e questa è The Most Certain Sure. Deep. pau pau pau o check check check, pronunciala come vuoi, questi erano i check check check per l'appunto con The Most Certain Sure. Tra l'altro check check check per l'occasione hanno ritirato fuori dei pantaloni a zampa per cantare sta canzone qui, che fa molto disco dance anni 70 e... vabbè, se è l'evoluzione della Touch and Go, sono passati anche per dirà, la puntata è su questo. Massimo Battistella è contento, ma soprattutto ci accompagna verso i la Blonde fine. Redded, la fine del programma, e sono stati scelti proprio questi. Chi certo. sono questi Blonde Redded? Blonde Redded è un gruppo che appunto ha fatto storia e parte della storia di Touch and Go. È un gruppo che ha le sue, il suo gruppo seminale sicuramente nei Sonic Youth, da come la penso io, e poi ne ha fatto arte e parte, insomma impara l'arte, mettila da parte, e hanno fatto le, i loro suoni su... su cose che si erano già un pochino sentite, insomma. Io volevo fare un piccolo riepiloghino su tutto quello che abbiamo detto. Nel, vai, 70, vai, vai. Nel 79 nasce la Touch and Go come fanzine, autostampata, autoprodotto, tutto molto punk. I primi gruppi nell'81, i The Necros and the Fix con i 7 pollici, si parlava di vinile. Nel 2006 il 25ennale, negli anni 90 la produzione di grandissimi gruppi, appunto Shellac, Jesus Lizard, un sacco d'altri, gli Yeyeyes in esordio, un sacchissimo di gruppi, i Blonde Redhead. Abbiamo visto che nel 90 pure i Nirvana sono riusciti a pubblicare uno split con i Jesus Lizard. Ce ne andiamo tutti e contenti, finché nel 2009 la Touch and Go non produce più autonomamente dischi, ma si impegna a vendere quelli che sono già in catalogo. Siamo giunti in conclusione di puntata, ed è stata veramente una gran puntata. Io vi ringrazio, è il momento di farci pompini a vicenda, come diceva comodo signor Wolf, arrivando con la sua macchina in pochissimi minuti. Esatto. In Pulp Fiction. Però aveva tolto un cadavere da un vetro al momento. Comunque, spapolato. Noi nel nostro piccolo abbiamo finito questa puntata. Massimo, io ti prenoto per un altro speciale, non so quando verrà, ma sappi che ci sarà, per cui perfetto. Ritieniti con una bella etichetta in fronte, prenotato per gli studi di Music for Youth. Apprezzo il gioco di parole. Il CD che sentite sottofondo è The Runaway Found dei Veils. Era appunto l'occasione per dire che magari faremo qualcosa sulla Rough Trade. È possibile, che sì. Potrebbe essere una buona scelta per tutti e tre, sì. Gli italiani presenti in questo studio. Ringrazio Elvise Favotto. Io ringrazio Daniele Terzariol. E insieme ringraziamo Massimo Battistella. Io ringrazio voi. Quanta meraviglia. Adesso mettiamo Puffetta e gli altri puffi qui in studio e andiamo. E soprattutto rivestiamoci, ragazzi. Visto che la puntata comunque è andata strabene, ti chiedo di fare l'ottimo conduttore Massimo. Tocca a te salutare i radioascoltatori, mandare la prossima settimana e digli il pezzo che andiamo ad ascoltarci. Assolutamente, io vi rimando a ascoltare sempre Music for Youth, non vi do gli indirizzi perché non li so, anche se ci vado ogni giorno a vedere quel che mettono. Allora, il pezzo che stiamo andando ad ascoltarci è In Particular, dall'album Melody of Certain, The Mage, The Lemons del 2000, uscito per Touch and Go. Questi sono i Blonde Redhead. Buon ascolto e buon Music for Youth.